abbiamo. Passami il dompe qui in mano, una testa a canna e partiamo via. Non sono un finto G, sono un azzaro vero. Moto e casco nero, zio bando nero. Scaldo il mic tipo nicotina, microclima. Questo weekend faccio cagare, fra come quello prima. Ricordo solo che eri bionda con lo chatouche. Io ero vestito come sempre, fra come un pusher. Il mio motto è sempre l'ultimo, poi me ne vado. Poi mi sveglio a testa in giù vestito sul divano. Fra la mia compagnia un freak show. Qua mi fermano per strada, fai la foto, minchia zio senza flow. La mia vita è sul palco, tra i fiumi dell'alcol. Zio, vorrei farmi la famiglia di un altro. Voglio svegliarmi in California dopo la sbornia. Zero cappuccio e occhi dentro a questa fogna. Dove andiamo questo weekend? Dove si va? Dove si va? Questa sera sopra sti fashion blogger. Queste bitches vogliono la mia bacchetta magica come Harry Potter. E risvegliarsi in hangover sopra un Range Rover. Nuovo flow, uomo Vogue sulla cover. Tu ama ancora la canta dopo più di 70 mila singoli di pesto di Michia che sbanca. E passa dalla panca agli zeri in banca. Weapon non romanza, in giro col maranza. Tu che scocchi al mio tavolo. C'è una stripper, un pregiudicato e un avvocato del diavolo. Scappo baby, vuoi mettermi all'angolo? Scapolo. Non sei così avanti frate, sbocci io sciabolo. E tutti questi rapper sono figli miei, solo noi supereroi, playboy, Bruce Wayne. Ti bombardo Hussein, heavy metal Mustaine. Da Milano a LA, in 10 sopra il Q6. Dove andiamo questo weekend? Dove si va? Dove si va? Questa sera fidanzata, siete belli veri. Ricordo quando l'ho provata come fosse ieri. Staccava i petali da un fiore e contava. Non mi ama o non mi ama o non mi ama o non mi ama. Zia, non ci sta nell'annullare quell'anello d'oro. È inutile come la R di Marlboro. Selvaggio, Jake Brando. Chiamami Johnson e Johnson da quanto sboccio lo shampoo. E non so che lingua parlano tutte ste tipe. Provo quella universale delle lingue unite. Tu cercavi un gruzzoletto, ma hai trovato solo un grezzo a letto. Con un museo sopra il petto. I miei fratelli solo più di un netto. Twerky twerky ma sei troppo bianca, canfora. Gli altri rapper vanno a fondo, ancora. E mollami, mi succhi solo il banco, ma dove andiamo questo weekend? Dove si va? Dove si va? Questa sera Don't pay.